scena la rubrica del Breakfast Club del venerdì vigilia di weekend. Allora, l'appuntamento è dal 25 al 28 giugno 2024 alle ore 21.30. Ne diamo anticipazione perché fino a venerdì 31 maggio sono aperte le prenotazioni per assistere ad EBO, nuovo lavoro della Compagnia del Pratello, compagnia di giovani attori in carico ai servizi di giustizia minorile di Bologna. Con i ragazzi della Compagnia del Pratello avremo la possibilità di assistere a questo spettacolo. Ora, per darne anticipazione e dare anche la possibilità di iscrizione, verremo poi a dare nuovamente informazione avvicinandoci allo spettacolo. È per questo motivo che ve ne è un'anticipazione tale. Abbiamo con noi il regista e il curatore delle coreografie, Elvio Pereira de Assunção. Buongiorno e benvenuto, Elvio. Buongiorno, buongiorno. Oh, cosa sostiene Pereira? Sai che c'era un bellissimo film, c'è un bellissimo film dal titolo Sostiene Pereira, che era questo giornalista oppositore portoghese, che vabbè, adesso non voglio dare troppo spazio a questa citazione, piuttosto con te parlare di teatro, però appena ho letto il tuo nome, che chiaramente ha delle origini, e sentendo anche la tua cadenza, immagino insomma qualcosa che abbia a che fare. In questo caso però, poi arrivando alla completezza del nome, immagino Brasile? Yes, okay. Sì, sono brasiliano. Ok, perfetto, ho fatto una piccola divagazione così per iniziare tra cinema e teatro. Ora però parliamo di EBO. EBO, questo titolo molto particolare. Beh, a tale proposito, ci puoi dire qualcosa di più di cosa parla EBO e da cosa è stato ispirato questo spettacolo, Elvio? Allora, EBO è una parola africana che significa offerta, dono. E lo spettacolo, praticamente facciamo questo grande omaggio della sagra della primavera di Pina Bausch, che il prossimo anno compie praticamente 50 anni, e invece di prendere la storia della sagra, della questione pagana di fine 800 russa, che sarebbe la fanciulla che è sacrificata per una buona raccolta, noi facciamo questo mix della sagra di Stravinsky con la storia di un orisha, di un dio che fa parte della cultura afro-brasiliana, della religione del candomblé, di Oxóssi, che è un dio che riesce con una unica freccia sconfiggere il male della sua tribù, della sua comunità, portando sempre a una questione, la raccolta, la questione della guarigione, della purificazione della sua comunità. Quindi abbiamo scelto di fare questo mix, di raccontare la stessa via, però prendendo una cultura diversa da quella che normalmente si lavora con la sagra. Cioè, allora è questo filo conduttore che mette assieme la campagna Russia pagana di fine 800 fino ad arrivare all'Africa. Ed è veramente molto particolare tutto ciò, Non deve essere neanche facilissimo riuscire a portare in scena determinati contenuti. Com'è stato il lavoro, il percorso di lavoro, Elvio? Allora, il percorso del lavoro è stato molto, molto gratificante, molto bello, anche perché tutti erano molto predisposti a raccontare questa storia. Hanno capito bene che cosa significa questa storia, e nel processo abbiamo iniziato un po' con l'scrittura, abbiamo letto diversi racconti e loro subito hanno iniziato già a proporre dei gesti, dei movimenti. Infatti alla fine io sono il DJ della storia. Sì, io prendo tutto quello che loro danno e comincio a collegare una cosa all'altra. Quindi è un processo molto gratificante perché c'è la partecipazione di tutti. Sì, ed hai usato il termine giusto, quello di mixare insieme tante sensazioni che non vanno solo dal punto di vista territoriale, ma anche dalla storia, dalla tradizione, dall'emozione, dall'impegno sociale. Già vediamo e troviamo in scena una compagnia, la Compagnia del Pratello, Istituto Penale per i Minorenni di Bologna, quindi una particolarità e un valore decisamente aggiunto. Quando andrà in scena e dove, Elvio? Allora, andrà in scena dal 25 al 28 dentro l'Istituto Penale Minorile lì di Via del Pratello, e alle 9:30, se sì, non mi sbaglio. Sì, confermo, io ho tutti i dati. Pensa che nonostante abbia tutte le date, ogni tanto mi confondo anch'io, per cui chiedo sempre ulteriore conferma per quanto riguarda tutto ciò. Beh, no, giustissimo. Sì. E l'unica cosa della prenotazione, esatto, è che fino al 31 maggio, perché siccome facciamo lo spettacolo dentro, è necessario, certo, prenotare in anticipo. Per tutti i passaggi e determinate situazioni logistiche. Allora, sì, io a proposito, ho anch'io portato musiche, in questo caso dal Brasile, con un grande autore che è Marcos Valle, e questo brano che vorrei farvi ascoltare, che è Agua de Coco. Dopodiché con Afro Blue partiremo con un'improvvisazione musicale di Jackie McLean, e quindi puoi restare in linea per un po' di musica, poi torniamo a parlare di Ebo. Certo. A tra poco allora. Grazie Elvio. Grazie. Água de beber, beberá, que nem água de coco. Cheiro de querer, camará, é perfume no corpo. Que nem água de coco beberá, é perfume no corpo, camará. Pra quem é bem chegado, saravá. Pra quem chega cansado, oxalá. Como é bom viver. Água de beber, beberá. Que nem água de coco, cheiro de querer, camará. É perfume no corpo. Pra quem gosta do vento, ventará. Pra quem gosta de chuva, choverá. Pra quem gosta de lua, luará. Imaginando que os teus olhos me pedem. Gosto de ficar nessa preguiça, espreguiçando de amor. Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos refletem. A teu lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver junto com você. Água de beber, beberá, que nem água de coco. Cheiro de querer, camará, é perfume no corpo. E quem gosta da vida, viverá. E quem anda sem pressa, chegará. Quem precisa de santo, rezará. Quem tem fogo no corpo, pegará. Gosto de ficar nessa loucura, sem saber o que eu digo. Gosto de ficar nessa preguiça, espreguiçando de amor. Gosto de ficar nesse delírio, delirando contigo. Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver junto com você. Cerchiamo di fare un po' d'ordine rientrando in diretta, perché quando le passioni sono molto attinenti per quanto riguarda Ebo in diverse declinazioni, sto parlando del 1842, quando il grandissimo Gogol scrisse Le anime morte. Le anime al tempo erano intese come servi della gleba nella Russia zarista, eh? Poi parlo anche di Turgenev, Ivan Turgenev, altro grande padre della letteratura russa, fino ad arrivare a quella che è la poesia con Sergei Esenin, per cui veramente già questo è un oceano, è un universo. Abbiamo portato una colonna sonora momentaneamente con musica brasiliana da un subcontinente quanto mai diversificato anche in note, fino ad arrivare all'Africa con Ebo, questo spettacolo che ha nella tradizione a sua volta diversi fili conduttori con tutto ciò. Beh, non è semplice, eh? Ci sei ancora, Elvio? Sei rimasto in diretta? Ci sono, sei. E poi chi? Ah, che bello, guarda, beh, solo ascoltare, sentire la cadenza, così è grande emozione. Allora, come dicevo e come siamo partiti, la traduzione di Ebo è offerta, dono. Ci puoi dire qualcosa di più a tale proposito? Sì, la questione dell'offerta, del dono, pensando già alla storia originale di Stravinsky, come ho detto prima, praticamente c'è una fanciulla che deve essere sacrificata, sì, per il bene di tutti. In questo caso qua, di Ebo, non esiste un sacrificio, anzi, è più una condivisione, che è una cosa che penso che oggi nella nostra società abbiamo grandissimo bisogno. Confermo. Una persona non può fare niente da sola, però se riesco a condividere con gli altri, diciamo che possiamo avere un'armonia, un modo di vedere le cose e vivere le cose molto molto più tranquillo. Forse questo viene anche un po' del mio modo di essere, della mia cultura brasiliana, perché noi abbiamo questa cosa di condividere con gli altri, che sia anche una chiacchiera. Non vediamo mai l'altro come un estraneo, anzi, no, l'altro sicuramente ha dei doni, ha delle cose che possono praticamente informarmi e aiutarmi, certo, nel mio modo, nella mia esistenza. E già questo è un dono. E questo non è diciamo un dono, è un grandissimo dono, sì, principalmente adesso, perché il tempo è il nemico di tutti, perché tutte le informazioni sono veloci, dobbiamo avere sempre tutto molto pronto in quell'attimo lì, e quando trovi qualcuno che ti ascolta o che ti parla, questo già è una condivisione, quindi lì già si crea un spazio diverso di tempo. Sì, quindi è un grandissimo dono. È una percezione diversa. Ho citato alcuni aspetti letterari, ora citiamo anche quelli ovviamente più attinenti e musicali. È uno spettacolo liberamente ispirato alle Sacre du Printemps di Igor Stravinsky e alla mitologia Oxossi. Di quale, anche l'Africa è enorme, da quale parte dell'Africa, se possiamo essere un po' più specifici, Elvio? Quale parte dell'Africa? Poi è una parte di Angola, della Nigeria, okay, perché prima sappiamo che l'Africa non era divisa come conosciamo. No, assolutamente. Yoshosi sarebbe il re di Ketu, che prima era solo una città, che ormai oggi capiamo che è una regione gigantesca, che prende tutto quella parte lì, più al sud d'Africa, invece del nord d'Africa. Sì. E poi all'epoca anche la cultura Yoruba, c'erano diverse, era completamente diversa la situazione. Fate caso alle linee morfologiche dell'Africa, sono veramente squadrate fra gli stati. tutto questo è quel maledetto colonialismo che l'ha fatta a brandelli, dividendola in maniera così squadrata. Insomma, questa è una citazione che viene spontanea guardando, non solo per gli appassionati di geografia. Insomma, io ti ringrazio tantissimo, Elvio, per questa nostra conversazione con Jackie McLean da Afro Blu. Concludo e lancio questa nostra mini playlist, che si è divisa anche lei in diverse zone, ricordando che fino a venerdì 31 maggio sono aperte le prenotazioni per assistere ad Ebo, nuovo lavoro della Compagnia del Pratello, la compagnia di giovani attori in carico ai servizi di giustizia minorile di Bologna. Lo spettacolo sarà dal 25 al 28 giugno, ovviamente 2024, alle ore 21:30 in via De Marchi 5/2 all'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna. La regia... Sì, per prenotare sì. Può entrare nel Teatro del Pratello attaccato.it. Grazie. E lì si prenota. Beh, io dimentico sempre questi aspetti digitali, perché anch'io sono più lento, vedi? Anch'io tutto ciò che è un amenicolo digitale. Grazie che hai ricordato anche questa modalità di prenotazione. Anzi, puoi ripeterla per piacere, scusami, eh? Teatro del Pratello tutto attaccato. .it. Grazie Elvio Pereira de Assunção per questa conversazione e presentazione. Ti auguro una buona giornata e a presto. Grazie a voi. Grazie, ciao. E buon dia. We'll be right back. Stravinsky, letteratura musicale in balletto e teatro, Le Sacre du Printemps, pronunciato più in bolognese che in francese, però sapete che è la sagra della primavera, scritto mi pare, adesso vado a informarmi meglio, mi pare nella prima metà 1910, ecco, periodo per la Russia con movimenti culturali e sociali, come ben sapete, immensi. Ecco, va, 1911, ho avuto informazione un po' più attinente. È l'unica cosa per cui uso certi strumenti, per avere più precisione nelle date. Preferisco sempre leggere nella maniera tradizionale. Comunque il mito della storicità nella mitologia che porta dalla Campania, nella Russia allora feudale, fino ad arrivare alla stessa storicità e la tradizione africana e trovarne delle attinenze e portarle in scena, veramente molto particolare. Pensate che all'inizio, come spesso capita per dei grandi capolavori, per Stravinsky non fu esattamente un successo, eh? Andiamo verso la pubblicità, 8:25, poi si ritorna in scena, ovviamente ricordando che le prenotazioni per Ebo saranno fino a venerdì 31 maggio, ma lo spettacolo è dal 25 al 28 giugno alle ore 21:30, Teatro del Pratello, via De Marchi 5/2. Situazione meteo per il weekend? Dai, per adesso ci siamo. Buon ascolto, a tra poco, in scena Breakfast a Club di Radio Città Fujiko.